Ehi, diciamo... Lascia stare. This is a Mr. Magic Super Blast. I'm imperial. Cazzi da sbrogliare, conti che non tornano e non tornano mai. Tipi da beccare che poi beccano guai. Lascia stare. I'm imperial, non mi guardare, non hai occhio, non ci pensare ti blocco. Tutti che chiedono troppo, quando mi parli io ci vedo doppio. Lasciami stare, io ti doppio, nel circuito con l'intuito meschino. Lasciami stare, sono sempre primo, è inutile che aspetti all'arrivo. Quei cazzi miei, tu mi devi mollare. Occhio, rischi grossi, ti conviene filare. Bello, tu rischi nei miei cazzi di mischi. Mi girano le palle, manco fosse lo dischi. I soldi che in testa riempiono il mare. Lasciami stare, lascia stare. In testa l'affare, lasciami stare, lascia stare. Quando pensi che tutto mi va male, lasciami stare, lascia stare. Quando i miei pensieri da curare, lasciami stare. DJ Yane, I'm imperial. Testi i miei riflessi, si agitano i fessi. Non cercare di comprarmi, non accetto compromessi. Tu cambi valuta, io trovo chi mi valuta. Io valgo a peso d'oro, non ho trucchi nella manica. Devi fare pratica, non ti vedo lucido. Io ne esco pulito, tu risulti lurido. Leva la tua faccia, guida la mia visuale. E pensa le parole, i miei pugni fanno male. I soldi che ho in testa riempiono il mare. Lasciami stare, lascia stare. In testa l'affare, lasciami stare, lascia stare. Quando pensi che tutto mi va male, lasciami stare, lascia stare. Quando i miei pensieri da curare, lasciami stare, lascia stare. Lotto contro un mondo che mi vuole inserito. In questa società ho la faccia da bandito. Ho troppa rabbia, ho troppa forza. Io non voglio scazzi, do cazzotti sulla bocca. In questo fight club io do pugni da pub. Mentre le tue rime fanno solo lo scrap. Non ti voglio attorno notte e giorno, con il rimpianto di non avere il mondo. Ubriacato dalle cazzate che dici, chiama gli amici. Così ci pagano piaceri e viveri. Si rendono conto di quanto sono miseri. I soldi che ho in testa riempiono il mare. Lasciami stare, lascia stare. In testa l'affare, lasciami stare, lascia stare. Quando pensi che tutto mi va male, lasciami stare, lascia stare. Quando i miei pensieri da curare, lasciami stare, lascia stare. I soldi che ho in testa riempiono il mare. Lasciami stare, lascia stare. In testa l'affare, lasciami stare, lascia stare. Quando pensi che tutto mi va male, lasciami stare, lascia stare. Quando i miei pensieri da curare, lasciami stare, lascia stare. Mi guardi, cosa guardi? Dove guardi? Ti vedo perso. Che succede? Sta sconvolto ciò che ho detto? Cosa guardi? Dove guardi? Ti vedo perso. Che succede? Sta sconvolto ciò che ho detto? Sta sconvolto ciò che ho detto? I'm imperial.